bisa tak kramasi. Nanging yen kramasi loro ati ora gampang kaya mijet wohing ranti. Bisa tak petani nanging yen metani loro ati ora gampang kaya micet woheng ranti. Eling aku tansah eling senajan kau ora eling. Bisa tak petani.